Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto, buon termine di serata se ci ascoltate alle 20.45 in replica. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it, vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di una vicenda che ha tenuto banco per mesi, sotto molti profili, che accade a Serra d'Aiello, siamo nel Cosentino, con l'istituto Papa Giovanni XXIII. Avrete letto di preti indagati, preti che si erano arricchiti, secondo l'accusa, sulla pelle dei malati, persone scomparse, crack finanziari, ammalati lasciati, speriamo, non senza ricovero, perché c'è stato alcune settimane fa uno sgombero forzato e forzoso che ha lasciato anche scene strazianti davanti a questo istituto, giustificabilissime, ma lo stesso risultato lo si ottiene, credo, ma posso ovviamente sbagliare, senza fare sceneggiate. Questo lo dico perché altrimenti la sceneggiata poi getta tutto nella tragicommedia. Abbiamo parlato ieri con la dottoressa Del Giudice, che è portavoce nazionale del Forum di Salute Mentale, e con l'onorevole Franco Laratta, deputato cosentino del PD, fra i primi a denunciare questa situazione in tempi non sospetti, quando tutto il mondo sapeva. Tra quelli che sapevano c'erano anche gli amministratori regionali della regione Calabria. Tra le persone che sapevano e che hanno cercato di porre rimedio c'era l'assessore regionale alla sanità Doris Lo Moro, che conoscete bene, più volte nostra ospite, ora deputata, anch'essa tra le file del PD, e io l'ho chiamata proprio per parlare di ciò che non è andato a buon fine del percorso di risanamento sotto tutti i punti di vista che lei aveva cominciato. Buongiorno Doris Lo Moro. Buongiorno, io le confermo che sono tra le persone che sapevano. Ecco, e benissimo. Sono, però lo rivendico con orgoglio, tra le persone che non hanno nulla di cui vergognarsi. Perché... Ma non lo metto assolutamente in dubbio, conoscendola. No, ma voglio dire, io sono stata molto in silenzio perché questa storia è drammatica e sono stata molto preoccupata di tutto quello che si verificava, ma anche per il risalto che ha avuto la notizia a livello nazionale, visto che me ne date la possibilità, voglio chiarire anche la mia posizione. Prego. Io ho conosciuto il Papa Giovanni, sono stata nel Papa Giovanni nell'agosto del 2005 e da maggio ero assessore alla sanità. Per la prima volta ho sentito parlare del Papa Giovanni nell'agosto, a seguito appunto di una contestazione che c'era stata, e devo dire che da quel momento non ho mai smesso di occuparmi del Papa Giovanni, anzi le vicende giudiziarie che ci sono poi state, che hanno registrato anche arresti eccellenti, l'arresto di un prete in particolare, e sono state questioni che sono emerse dopo tutto quello che non c'era, che non andava nel Papa Giovanni, è emerso innanzitutto sotto il profilo amministrativo e politico, l'abbiamo fatto emergere noi stessi. Quando certo. Poi è scoppiata la vicenda giudiziaria, non ci siamo trovati né non siamo stati né sorpresi né eravamo sprovvisti, al punto che poi, voglio dire, lo stesso magistrato, il sostituto Pacciolla, che ha sequestrato l'immobile, ha affidato la sanità del Papa Giovanni alla persona che io insieme al direttore generale dell'epoca dell'ASP di Paola avevamo scelto proprio per costruire il futuro del Papa Giovanni, che è la dottoressa Signorelli. Ecco, io vorrei chiederle questo, onorevole. Quindi lei aveva capito, quando ha preso incarico nell'assessorato, aveva capito che tra le priorità c'era questo istituto Papa Giovanni XXIII, dove troppe cose non tornavano. Ed allora le chiedo, come aveva cominciato a porre rimedio a questa situazione? Quali erano le mosse che aveva pensato di attuare? Ma soprattutto poi, perché c'è stata allora questa degenerazione? Ricordiamo che lei poi ha lasciato il ruolo. Perché capisco i vostri tempi, ma il problema qual era? C'erano oltre 300, all'epoca 375 ospiti, c'erano centinaia di operai e di dipendenti, non operai, di dipendenti con varie qualifiche, c'era un'economia di Serra d'Aiello che era tutta fondata sul Papa Giovanni Giovanni, certo, e avevo il compito ingrato di trovare una soluzione che salvaguardasse tutto. L'unica cosa che non era stata disponibile a salvaguardare erano i debiti della fondazione, che sono decine di milioni di debiti, e non so fatti con i criteri con cui è stato gestito il Papa Giovanni, e rispetto a questi debiti ovviamente noi come ente pubblico non potevamo trovare una soluzione. Certamente. E allora ci siamo affidati a dei tecnici, abbiamo portato avanti uno studio di fattibilità con la del giudice che era presidente nazionale del Forum della Salute Mentale, ma anche consulente dell'assessorato. Abbiamo delineato un progetto sanitario per il Papa Giovanni e alla fine siamo arrivati alla conclusione, accettata dallo stesso vescovo e quindi dalla stessa chiesa locale, che bisognava trovare questa soluzione, bisognava costruire insieme a Sviluppo Italia, che ci aveva assistito nel progetto di fattibilità, una società pubblico-privata, ma prevalentemente pubblica, 95% regione, 5% Sviluppo Italia, che poi è il Ministero del Tesoro, certo, quindi pubblico, certo, pubblico, che prendesse in gestione il Papa Giovanni dopo che il Papa Giovanni veniva, però non con tutti i suoi debiti, ma prendesse in gestione il Papa Giovanni con un affidamento che non poteva che essere passare dalla magistratura. Quindi era previsto che il vescovo che la fondazione portasse i libri contabili in tribunale, che dopo una procedura di legge, quindi per volgarizzare la questione, dopo un fallimento di questa fondazione, certo, non un vero e proprio fallimento, allora la gestione passasse a questa società che doveva salvaguardare i dipendenti, i malati e quindi l'economia, ecco, del luogo. Onorevole, mi scusi un attimo perché la interrompo per riassumere per i nostri radioascoltatori. Dunque, si era trovato un percorso, un cammino che era stato studiato e concordato anche con ovviamente la regione, ovviamente la chiesa, ricordiamolo, la curia che ha la proprietà comunque di questo bene immobile, con Sviluppo Italia, vale a dire il Ministero del Tesoro, dunque lo Stato, per uscire da questa situazione. Poi lei però lascia l'assessorato alla sanità, e allora che cosa non funziona più in questo percorso che voi avevate delineato? La cosa era credibile perché supportata tecnicamente, ma voglio anche aggiungere, perché non rivendico meriti miei, che nel frattempo il Papa Giovanni è stato gestito dal punto di vista sanitario in maniera completamente diversa, perché soprattutto, ecco, dopo l'intervento della magistratura e dopo, cioè, quando la dottoressa Signorello, la psichiatra che noi avevamo portato a Paola, occuparsi direttamente del Papa Giovanni, le condizioni di vita degli ospiti erano completamente cambiati. Si era in condizione, si è stato in condizione nel marzo del 2007 di ospitare a Serra d'Aierro il Forum Nazionale della Salute Mentale, ed è stato un segno, un riconoscimento all'assessorato, alla Calabria, a Serra d'Aierro, di questa rivoluzione che stava avviando. Quindi una situazione completamente diversa da quello che le telecamere ci hanno mostrato. Assolutamente diversa. Ecco, con una situazione incredibile all'interno. Lei tenga presente che sull'esperienza di questi due anni di cui stiamo parlando, dal 2005 al 2007, è stato elaborato un libro, è stata realizzata una mostra fotografica, cioè c'erano gli ospiti, avevano ricominciato a vivere non normalmente. Ecco, ma allora che cos'è che poi dopo ad un certo punto ha fatto precipitare gli eventi, riportandoli a quella situazione che, appunto, dicevo prima, le telecamere ci hanno mostrato? Chi ha sbagliato in cosa? Allora, premesso che chi ha sbagliato è innanzitutto chi ha portato il Papa Giovanni nelle condizioni in cui si trovava nel 2005, sono decenni, certo, di malgoverno, certo, di malamministrazione, decenni che sono da contestare alla politica dell'epoca e innanzitutto alla Chiesa dell'epoca, alla posizione. Certo. Abbattuta. Devo dire che io non ho nessuna preoccupazione a dire con assoluta sincerità che ci sono responsabilità anche dell'attuale giunta, perché dell'attuale amministrazione dell'ASP di Cosenza, oggi ASP di Cosenza, allora c'era l'ASL di Paola. Perché? Perché c'era un progetto, è stato cancellato quel progetto, non formalmente, è stato, diciamo così, non è stato attuato quel progetto, è stato ritenuto un progetto, mi dicono, giudicato futuribile, un progetto utopico, ma nessuno ha costruito un altro progetto e la situazione è degenerata fino ad arrivare allo sfratto forzoso. Quel progetto era un progetto attuabile, c'erano tutte le condizioni per attuarlo, c'erano anche i fondi per farlo, e io credo che oggi è veramente, diciamo così, davanti a tutto quello che è successo, dobbiamo essere tutti consapevoli che non serve affermare che si è provveduto allo sfratto in maniera corretta, perché già lo sfratto è stata una violenza inaudita a cui la procura è stata costretta e che è stato seguito tra l'altro in maniera che non mi sembra ineccepibile, perché ci sono responsabilità precise, responsabilità amministrative e responsabilità politiche. Qualcuno dovrebbe chiedere al governo perché ha cambiato idea, alla giunta perché ha cambiato idea, qualcuno dovrebbe chiedere a Pietra Mala, che è l'attuale direttore generale dell'ASP di Cosenza, sulla base di quale mandato non ha portato avanti quel progetto. E questo noi cercheremo di scoprirlo, ammesso e non concesso che dalla regione e dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza qualcuno voglia parlarci e risponderci. Li abbiamo cercati, ma le risposte sono state no. Ci riproveremo, perché questo lo devono non a noi, ma lo devono ai cosentini e agli italiani tutti. Grazie dell'intervento all'onorevole Lo Moro, grazie in regia Filippo Reggi, in studio Laura Faginne, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.